Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Anche noi disabili. Vorrei solo accennare al fatto che mettono nella corrente la tassa della televisione, ma per i non vedenti, mi deve scusare, che vivono anche soli, quale televisione possono vedere? Io chiamo per mia sorella, lei si muove o in sedia a rotelle o con il bastone facendo dei piccolissimi passi. Il mio messaggio è per la sensibilità di tutti, non proprio solo dello Stato. Cioè, io mi sono accorto da quando lei è così che anche solo, noi siamo di Cremona, che anche solo una bicicletta parcheggiata sul marciapiede, un vaso di fiori di un negozio, per lei deviare, dover scendere, fare il gradino per scendere dal marciapiede vuol dire tanti minuti. E questo sta alla sensibilità di tutti. Nessuno si preoccupa, lascio lì la bicicletta, ci passano. Oggi dedichiamo la puntata a un appuntamento consueto che non abbiamo più ripreso nel 2016, è Anche noi disabili. È l'iniziativa di Radio 24 che dà spazio, visibilità, voce e possibilità di esprimersi a tutte le persone che hanno, rispetto alla norma dell'umanità, delle difficoltà nel relazionarsi con le altre persone, difficoltà nel muoversi, difficoltà nel guardare, nell'ascoltare, nel mettersi in contatto con il mondo. Lo abbiamo fatto negli ultimi mesi dell'anno precedente, devo dire l'abbiamo fatto con grande soddisfazione. Il principio che ci muove, lo ricordo all'inizio di questa nuova stagione, perché continueremo, non sono quelle cose che si fanno tanto per farle, tanto per un attimo in cui vuole sentirsi disponibile verso il mondo delle persone con necessità diverse rispetto a quelle della maggior parte dell'umanità, ma lo facciamo perché consideriamo che sia importante che cominci a entrare in un principio generale, metabolizzato, realmente interiorizzato dalle persone che ci ascoltano, non semplicemente in superficie, non semplicemente quando facciamo dichiarazioni ufficiali alle persone che ci circondano, in cui tutti siamo d'accordo che in realtà non dovrebbe andare così, in cui tutti ci sentiamo solidali o perlomeno in cui tutti siamo pronti una volta almeno nella vita a dire beh sì, anche io capisco questo problema. In realtà poi il problema non lo capiamo quando per disattenzione, semplicemente perché pensiamo che non sia poi qualcosa di grave, parcheggiamo la macchina in una rampa di un marciapiede, o quando facciamo finta di non vedere una persona in difficoltà, o quando abbiamo un momento di stizza, un momento di fastidio nel considerare magari un collega, una persona che incrociamo, una persona che incrocia la nostra vita, che vediamo che è rallentato rispetto alla necessità di essere veloci, di essere efficienti, di essere attivi, di essere multitasking, che sembra la caratteristica fondamentale dell'umanità contemporanea. Oggi l'umanità va velocissimo, oggi l'umanità riesce a svolgere contemporaneamente un numero altissimo di funzioni rispetto semplicemente a una generazione che ci ha preceduto. Per oggi l'umanità riuscirà a vincere la sfida con un mondo che ti impone di essere più veloce, se riuscirà in profondità e sedimentandolo come una caratteristica essenziale, fondamentale alla convivenza, a considerare anche gli esseri umani che comunque hanno delle difficoltà in alcune capacità, possibilità, potenzialità dell'esprimersi. Non è detto che ci debbano essere persone con un passo diverso, che debbano avere dei posti diversi nella società. I passi diversi, come vedrete fra qualche istante, possono essere compensati, visto che viviamo, viva Dio, nel mondo della fantastica tecnologia che si interfaccia con l'umanità. Melog. Cronache meridiane. Anche noi disabili. Io sono un nonno di un bambino gravemente disabile. Ovviamente non vede, non cammina, non parla, quindi abbiamo avuto questo disastro. Da 13 anni avremo bisogno appunto di far mettere un montascale, perché per il bambino cresce e non si riesce più a portarlo avanti e indietro. Ci hanno chiesto 22.000 euro. noi sinceramente non ce la facciamo. Grazie. A seguito della premessa che ho fatto poc'anzi, voglio questa mattina, a differenza della prassi che normalmente mi fa parlare soltanto con persone che pongono problemi, e noi questi problemi poi girandoli tra noi colleghi, facendoli circolare per i giornali radio, spalmandoli in tutto il palinsesto di Radio 24, proviamo, se possibile, a portare l'attenzione delle persone che in qualche maniera sono preposte a risolverli, senza darci la palma o il merito di essere persone che risolvono problemi. Noi non siamo risolutori di problemi, siamo giornalisti. Possiamo semplicemente, con coscienza, con gli strumenti che abbiamo noi, di scandagliare, vagliare, raggiungere sia le fonti sia gli interlocutori, portarli alla pubblica attenzione. Però sono partito con una premessa che diceva che praticamente vivere la contemporaneità significa viverla in tutti i suoi splendori, in tutte le sue massime estensioni, ma anche nella sua capacità comunque di comprendere, metabolizzare e integrare anche le parti di umanità che per natura, per problemi in corso nel corso della loro vita, hanno delle limitazioni rispetto alla possibilità media di un essere umano di parlare, di relazionarsi, di vedere, di ascoltare, di muoversi, di avere un controllo totale o ampio sulle proprie sensorialità. Questa risposta nasce dalla tecnologia. Oggi la tecnologia non spaventa più, o perlomeno non spaventa più come spaventava in passato, non viene più considerata come qualcosa di diabolico, di qualcosa di disumano. La tecnologia fa parte dell'umanità. L'uomo in realtà è sempre stato un essere tecnologico. Da quando ha sviluppato un pollice opponibile che trasforma la sua mano in un utensile, l'uomo capisce che la tecnologia è la capacità di rapportarsi con il mondo che lo circonda. Visto che in questo spazio parliamo di disabilità, di persone che comunque hanno difficoltà nel avere pieno possesso di tutti i propri sensi, la tecnologia interviene in questo caso. Interviene in una maniera fantastica, interviene dando corpo a quella che è la profezia più avanzata di tutte le fantascienze possibili e immaginabili. L'uomo e la macchina messi assieme costruiscono e combinano un organismo che aumenta l'efficienza dell'umanità. Il senso di protesi, una volta consideriamo la protesi come qualcosa quasi da nascondere, qualcosa che andava ad imitare la parte del corpo umano che in realtà aveva una difficoltà. Una mano di legno ricostruita come se fosse una mano in carne ed ossa, che in realtà non serviva a niente, era una semplice copertura, una pietosa maniera di nascondere qualcosa che mancava. Oggi una mano che manca diventa un meccanismo formidabile e che probabilmente anche delle capacità di uso molto più avanzate rispetto alla mano originale. Guardate cosa sono le protesi per correre degli atleti che non hanno le gambe. Li trasformano non in dei poveri infelici, come dicevano una volta, a cui manca qualcosa, quei signori che si vedevano a chiedere l'elemosina perché erano ai margini della società, mostrando i moncherini, mostrando ciò che a loro mancava. Io ricordo da piccolo, ero impressionatissimo, di un signore che diceva salute alle gambe, si toglieva la gamba di legno, si metteva lungo una marciapiede di Perugia chiedendo soldi perché gli mancava la gamba. Oggi una persona a cui manca la gamba si mette una gamba artificiale che è fantasticamente più funzionale di quella che aveva prima, probabilmente. Questo è il concetto. La tecnologia non è che è un supporto pietoso a ciò che manca, ma diventa una marcia in più, quasi un doping, come era per Pistorius, atleta che fu un faro in questo connubio felice fra tecnologia e umanità, che poi giustamente, come accade a tutti gli esseri umani, ha mostrato anche dei lati fallaci della sua vita. Non è detto che la persona a cui manca qualcosa debba poi essere un angelo. Luca Spaziani, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Luca Spaziani si è sorbito questo mio pistolettone, ma era la prima puntata della nuova stagione di Anche noi disabili. Luca Spaziani ha fatto un libro fantastico, Digitabili, editore Franco Angeli, che racchiude in sé un compendio di tutto quello che io ho rozzamente anticipato, cioè laddove la tecnologia non va a compensare, diventa un'opportunità per essere anche qualcosa oltre rispetto a quelli che erano i limiti della condizione umana. Dico delle eresie? No, anzi, ci mancherebbe altro. Diciamo, se posso riassumere un po' a partire da quello che dicevi, io direi che la tecnologia compensa da un lato le minorazioni che possono essere di vario genere, Ma in ultima analisi, diciamo, cosa produce come risultato finale? Produce il fatto che i disabili, diciamo, sono messi nelle condizioni di essere parte attiva della società, di essere parte attiva della comunità, e questo secondo me è un po' quello che riassume tutto il vantaggio portato dalla tecnologia. Prima si diceva, appunto, oggi la comunità, l'umanità corre, e nel correre però deve prestare attenzione a chi per qualche motivo rimane indietro. Ecco, la tecnologia può essere uno strumento per cercare di far incontrare queste due necessità, cioè da un lato l'umanità che corre e dall'altro delle persone che avrebbero e hanno tantissimo valore da apportare alla comunità, tantissima positività, e che appunto per problemi fisici o psichici sono limitati nel farlo. La tecnologia può aiutarli davvero ad essere invece parte attiva della comunità, e può farlo, e questo secondo me è un aspetto estremamente positivo, sempre di più attraverso gli stessi strumenti, gli stessi canali comunicativi utilizzati anche dai cosiddetti normodotati. Questo aiuta a ridurre barriere e anche a facilitare la comunicazione, l'interazione tra tutti, a prescindere dalla propria condizione. Ecco Luca, io vediamo se accetti questo tipo di provocazioni. Direi che diventa un grande laboratorio l'umanità, non perfettamente, non totalmente abile rispetto a un parametro più diffuso e più condiviso, diventa un grande laboratorio di sperimentazione di quelle forme più avanzate che erano state già profetizzate da tutta la cyber fantascienza, in cui l'umanità, senza entrare nel compendio dei mostri da film, comunque dimostra che in realtà la tecnologia è qualcosa che può facilmente fondersi con la materia organica e creare qualcosa che è più funzionale, funziona meglio. Il corridore con le gambe che sembrano delle balestre di carbonio, così corre molto più veloce di quanto correrebbe un essere umano. Se volessimo attribuire a questo un veloce passo dell'evoluzione, tutti gli esseri umani dovrebbero nascere con quel tipo di protesi, perché va più veloce, funziona meglio, stanca meno, è più efficiente. Adesso, al di là di questa mia elucubrazione, non è un compensare pietoso, come sempre è stato l'idea della protesi, ma è uno sperimentare gioioso di quelle che sono le possibilità di espansione felice di esseri umani. Ma questo è il beneficio che credo tutti possano constatare nell'utilizzo della tecnologia, no? Anche, diciamo, le persone comuni, anche semplicemente pensando a quello che si riesce a fare con uno smartphone, quanto lo smartphone estende le nostre capacità comunicative. Questo nel caso di una persona con un handicap chiaramente è un beneficio abbastanza facilmente intuibile, nel senso che nel momento in cui una persona ha una carenza fisica, il fatto di poter utilizzare uno strumento che per sua natura amplifica le capacità umane è chiaro che per lui ha un ruolo tutto particolare, tutto speciale. Ecco, dividiamo, per presentare chiaramente quello che è stato il tuo lavoro, per grandi argomenti per far capire di cosa stiamo parlando. Cominciamo a parlare di strumenti che noi usiamo tutti normalmente, che però in realtà con delle modifiche o con degli adattamenti diventano degli strumenti fantastici per riuscire a muoversi nel mondo popolato da esseri normotipici, anche le persone che hanno qualche difficoltà. Noi parliamo di barriere e siamo abituati a dire le barriere architettoniche, immaginiamo gli scalini, le scale, le porte, gli ascensori, ma vediamo come le barriere di ogni tipo possono essere superate attraverso la tecnologia. Ma io metterei in prima battuta proprio le barriere architettoniche, nel senso che la tecnologia, una delle cose che consente di fare è quella di compiere azioni in modo alternativo rispetto alla modalità con cui siamo abituati a pensare di compierle. Faccio un paio di esempi per dare un'idea: fare la spesa e andare in banca. Sono due azioni che per una persona normodotata possono risultare abbastanza semplici. Per una persona con un handicap che può essere visivo o motorio, potrebbero risultare addirittura proibitive da compiere in modo veramente autonomo. Io non l'ho detto fino adesso per non bollare subito con un segno diverso. Tu non vedi, sei un non vedente, quindi tu conosci bene, tu hai scritto un libro e parli di cose che conosci bene, che hai provato sulla tua esperienza. Quindi come riesci a percepire e a muoverti nel mondo in maniera più efficiente da quando ti viene messa a disposizione qualcosa che va molto oltre rispetto agli antichi, normali, conosciutissimi presidi che può avere una persona non vedente? Ma diciamo, lo si può declinare questo beneficio a partire proprio dalle attività quotidiane per giungere poi invece a quelli che sono i grandi traguardi, i grandi obiettivi che ciascuno di noi ha nella vita, che può essere la realizzazione attraverso lo studio, il lavoro e le relazioni. Per quanto riguarda le attività quotidiane, due esempi che facevo prima sono secondo me abbastanza efficaci, abbastanza intuitivi. Il fatto di poter, ad esempio, fare la spesa online, che può essere un servizio comodo per tutti, ma una persona normodotata può scegliere tra la possibilità di farla al supermercato e farla attraverso un sito. Per una persona non vedente, ad esempio, la possibilità di farla attraverso un sito significa acquistare i prodotti davvero in autonomia, potendoli confrontare, potendoli scegliere in base alle loro caratteristiche, in base alle offerte, alle scadenze. Lo stesso dicasi ad esempio per la banca. Il poter gestire il conto corrente in home banking permette di non doversi recare in filiale. Pensiamo ad esempio ad una persona con problemi di udito, quanto può essere complicato, difficile andare in banca e relazionarsi con un filialista dall'altra parte del vetro. Che già è difficile, capirsi al di là dello sportello per chiunque. Comunque. Figurati chi ha un deficit di udito, è ancora più complicato. Ci fermiamo soltanto un istante per la pausa, poi riprendo con te, concludiamo e passiamo a un altro ospite. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Melog. Cronache meridiane. Anche noi disabili. Sono una persona con handicap che ho lavorato 41 anni in un'azienda. È un caso sia di ingiustizia nei miei riguardi e sia di ingiustizia contro i disabili, perché c'è un'azienda che si rifiuta di fare l'assunzione di disabili come prescrive la legge delle categorie protette, mentre addirittura fa mobilità apposta per togliersi da questo dovere. Allora, riprendo con Luca Spaziani, ricordo autore di Digitabili, che è un libro di Franco Angeli, dove c'è un compendio per a vastissimo spettro, si arriva a parlare anche delle disabilità non soltanto di tipo fisico ma anche di tipo cognitivo, di tipo relazionale, per le persone che appartengono diciamo allo spettro autistico, che ben conosco, che devono comunque riuscire in qualche maniera a il più possibile integrarsi, ad essere inclusi magari in una classe di alunni. Mi ero fermato con lui parlando delle barriere architettoniche a 360 gradi, non soltanto usando presidi per fisicamente attraversare le barriere architettoniche, ma anche per bypassarle, come riuscire a gestire un conto in banca, come riuscire a fare alcune operazioni di acquisto online anche per una persona che non necessariamente andare fisicamente nel posto. Luca Spaziani, andiamo avanti, entriamo in un altro tipo di applicativi rispetto al passaggio dai sistemi tradizionali a quanto la tecnologia possa supplire. Sì, diciamo in questo ambito mi viene in mente la scuola. L'ambito scolastico è sicuramente quello all'interno del quale la tecnologia sta producendo i maggiori effetti positivi. Pensiamo solamente a tutte le persone con disabilità che riescono a concludere il percorso di studi con la scuola superiore e poi iscriversi all'università. Ma mi viene in mente il fatto che il passaggio concreto ed effettivo, che ancora, come può essere testimoniato da molte persone nel mondo della scuola, non è del tutto avvenuto, alla scuola digitale, all'aura digitale, quanti effetti positivi possa produrre, per esempio, per l'inclusione appunto di uno studente con disabilità. Se tutti i suoi compagni utilizzano strumenti digitali, gli strumenti digitali che lui già utilizza per necessità, che già da anni da molto prima che la scuola si digitalizzasse, gli studenti disabili utilizzano apparecchi tecnologici anche sofisticati. Ecco, se i compagni iniziano a mettersi un po' in linea utilizzando appunto, a partire dalla lavagna digitale, poi piano piano tutti gli altri dispositivi, si capisce come possa trarne beneficio in primis chi questi dispositivi li utilizza già, perché chiaramente vengono abbattute tutta una serie di barriere anche di didattica speciale, che naturalmente conserva la sua valenza, intendiamoci bene, e però può essere integrata con la didattica collettiva, con la didattica rivolta a tutti, per arrivare a quell'obiettivo che insomma, spesso è una parola che può risultare vuota, sì, ma in realtà è un obiettivo concreto, che è la didattica inclusiva. Sì, ricordo che noi abbiamo una legge fantastica sull'inclusione scolastica che tutti ci invidiano, poi quando va all'applicazione pratica e concreta ci si sbatte con 2000 difficoltà. Quello che ci fa capire Luca Spaziani è che in realtà l'uso del presidio digitale tecnologico per gli alunni disabili in realtà è una grande chance anche per gli altri, è alfabetizzazione digitale per tutta la classe, è una spinta, uno stimolo di fronte all'arretratezza congenita che molte volte c'è nella scuola italiana ad avanzare e dare gli strumenti anche agli altri. Se comunica bene il ragazzo disabile, trova una facilitazione il ragazzo disabile, tanto più sarà utile anche per gli altri ragazzi. Ringrazio Luca Spaziani e passo al primo ascoltatore che ci ha scritto, che è Walter. Walter, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti, io sono Walter e volevo raccontare un po' una piccola ingiustizia che ho subito esattamente la sera del sabato 19 dicembre ormai dell'anno scorso. Se la ricorda tanto bene, intende tanto la ferita e l'ha fatta star male questa ingiustizia subita. Abbastanza, perché allora tutto si è svolto in un cinema di Bologna e mi assumo le mie responsabilità al The Space Cinema. Se è successo, lei ne è testimone. Esatto, allora sono andato a vedere l'ultimo film di Leonardo Pieraccioni. A vedere però lei non vedente, o sbaglio? Esatto, io sono non vedente dalla nascita. Quindi è andato a vedere un film non vedente, va bene. Esatto. E cosa si dia per lei andare a vedere un film? Ascoltarlo e viverlo, diciamo, insieme agli altri spettatori in una sala cinematografica? Esattamente. Ma c'è da essere qualcuno vicino che in qualche maniera l'aiuta, le riassume alcune scene? Come funziona? Esattamente. Io immagino così, vado a tentoni, non so. È giusto, è giustissimo. Io andrei con un amico che ti racconta un pochino, ti aiuta a capire meglio. Sì, sì, esattamente. Mi fa vedere le scene. Mi sembra giusto, però. Momento di vuoto, no? Come si suol dire. Sì, ma fra l'altro, viverlo al cinema è un'esperienza diversa rispetto a dire, perché lei dovrebbe vederselo a casa con un familiare? Va al cinema e vive a fondo l'esperienza che lecita. È la ragione per cui andiamo al cinema rispetto a guardarci il DVD a casa. Ci piace stare lì. E niente, quando si tratta di fare i biglietti alla cassa, io educatamente chiedo: guardi, signorina, ci sarebbe l'opportunità di avere la riduzione per non vedente e accompagnatore? Ma mi sembra che l'accompagnatore non paghi, o sbaglio? Adesso non so, ecco, adesso come sia la legge. Qui è saltato il colabrodo, perché mi è stato detto, anche in maniera, se vogliamo, quasi sgarbata, quasi, dice: guardi, lei per dimostrarmi che non vede deve portare il verbale di invalidità. Sì, ho un'amica anch'io cieca che ogni anno deve andare a dimostrare, nata come lei, di andare a dimostrare per avere, che dice: guarda che ancora non mi ha fatto il miracolo la Madonna, sono sempre io, è sempre così. Quindi gli hanno detto: lei deve dimostrarmi che è cieco. Sì, lei mi deve dimostrare che è cieco mostrandomi il verbale di invalidità. Dico: guardi, io ho la tessera dell'associazione dove sono iscritto, l'Unione Italiana Ciechi. No, non mi basta. Ma onestamente, mi sembra anche un po' poco delicato dire: dimostrami che sei cieco. Cioè, come faccia davanti con le mani per dirsi vedeva? Cioè, non so, mancava. Ci mancava solo questo. Allora, cosa succede? Allora, per chi mi conosce, sa che... La presa a ridere, ho visto, non è che sei poi... Di fronte a un'ignoranza così crassa, uno o prende il bastone e glielo dà in testa o fa finta di niente, penso. Io ho preferito riderci su, perché ero con i miei amici. E questa, a un certo punto, ancora più sgarbata: no, lei faccia la persona seria. Dico: ma stiamo scherzando? Cioè, io farò quello che nel mio, pieno possesso delle facoltà mentali per mettere alla berlina questo cinema, questo luogo di ritrovo. Io sono andato a vedere il film tranquillamente, ma la cosa più fastidiosa è stata che la ragazza al mio amico che mi accompagnava ha fatto pagare il prezzo intero e a me ha fatto il ridotto, ma lo ha fatto con una cosa di favore, come se regalasse un atto di carità. Esatto, te lo do, basta che ti levi dalle scatole. Ora, posso dire una cosa, Walter? Dunque, sì. Io ho assistito a una cosa del genere 3 giorni fa in un cinema romano, 4-5 giorni fa. Si presenta una signora all'ingresso, dice: guardi, io sono l'accompagnatrice di una signora disabile e la carrozzina sta qui fuori. Dice: cosa devo fare? Al cinema c'era pieno di barriere architettoniche, c'è una scala ripidissima. Quando dice: guardi, non so che dirle, lascia la carrozzina qui fuori, cerca di farla venire qua. Con grande fatica questa signora, che poteva camminare con il bastone malissimo così, si fa accompagnare fino all'inizio di questa scala. La signora prova a dire: scusi, ma non avrei diritto io a una riduzione, il mio accompagnatore a non passare. Quello dice: guardi, deve tornare indietro, fare la fila, andare allo sportello e chiedere, io sono quello che strappa i biglietti. La signora ha desistito, a questo punto ha detto: vabbè, lasciamo perdere, ormai è andata, così, e via dicendo. Dice: c'è un ascensore per scendere? No, non c'è l'ascensore, deve scendere a piedi. Signora un po' indispettita comincia lentamente, pian piano, a scendere a piedi questa scala ripidissima. Come è girato l'angolo, i due strappatori di biglietti sono guardati, dice: questa rompe pure le palle. Dice: prima non vuol pagare, poi rompe le palle che non c'è l'ascensore. Quasi indispettiti questa persona, che ha una difficoltà, non è che se l'è scelta lei, se l'è chiesta lei, pretendesse un trattamento, secondo lui, di favore per andare a vedere in quel pidocchioso cinema il suo film. Quindi evidentemente, guardi, io quello che posso fare questa mattina, una volta, come è andata a finire poi la sua storia? È uscita, se n'è andato, però ci pensa ancora. No, io ho visto il film, me ne sono uscito, ma io me ne sono andato, cioè, come sentendomi trattato da ultimo, no? Cioè come il poveraccio. Perché questo è stato poi il trattamento. Io poi ho scritto al The Space, sì. E loro, io adesso la mail intera non me la ricordo, però mi hanno riassunto che si sono molto rammaricati, ma questo è il loro comportamento. Cioè loro non prevedono, chiaramente, se devono fare, devono dare agevolazioni, vogliono il verbale di invalidità. Che io ci terrei a dire una cosa. Il verbale di invalidità è un documento molto delicato, non è che uno se lo può portare dietro. Sì, io lo so, perché è successo qualche volta anche a me che me lo chiedano per mio figlio, fa ridere. Uno non si porta dietro il verbale di invalidità, però lo fai una volta nella vita e te lo tieni a casa, non è un tesserino, è un foglio pieno di carte, di bolli e soprattutto di delicatissime diagnosi su quello che tu c'hai, capito? Quindi non è una cosa proprio che uno se lo porta sempre in tasca, quindi non so, a meno che ci vuole il patentino da invalido, non lo so, non credo che esista un patentino da invalido. Vorrei lanciare proprio un appello al Ministero della Cultura, delle Pari Opportunità, se ancora ce ne sia qualche traccia in giro. Ecco, chiedo una legge che obblighi a questo punto ad avere un po' più di rispetto verso disabile accompagnatore, concedendo riduzioni o comunque agevolazioni per disabile e accompagnatore, ma senza che venga messo alla berlina, perché altrimenti questa non è fare cultura, secondo me, perché io se vado in un cinema, vado da un'altra parte ancora, vengo trattato così, è normale che poi mi viene l'istinto di arrabbiarmi col mondo. Devo dire, al contrario, ci sono delle istituzioni, tipo dei musei che ho girato in Italia con mio figlio, in cui sono correttissimi. Appena tu provi a avvicinarti, già capiscono la situazione, ti fanno un sorriso, ti fanno passare, non chiedono nulla. Però è questione di civiltà, come vede, le leggi sono giuste, è giusto che vengano fatte, venga sancito, ma molto anche l'equazione individuale della persona. Dico, io ho avuto sorprese che mi hanno aperto il cuore, andando in posti, ripeto, musei, gallerie d'arte, in tutto, in cui non ho avuto nemmeno bisogno di aprire bocca. Poi è un ragazzo autistico, non è che sia così immediato. Una tale sensibilità e capacità di capire il problema in cui la persona ti fa un sorriso e immediatamente ti agevola nella maniera in cui tu giustamente devi essere agevolato per vivere meglio quel tipo di esperienza con una persona qualche possibilità in meno. Io la ringrazio, Walter, vedremo che seguito avrà questa sua telefonata, questa sua provocazione, perché sicuramente qualcuno la raccoglierà. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. anche noi disabili. Devo far presente comunque nella metropolitana milanese spesso alcune fermate sono decisamente ricostruite all'epoca, anche recentemente, senza però pensare appunto al problema della disabilità. Alcune fermate hanno ascensori, altre non ne hanno. Soprattutto la linea 2 a Villa Pompea, la fermata di Villa Pompea è qualcosa anche di scandaloso già per le persone che possono camminare, qui proprio gli disabili non possono metterci i piedi. E anche invece a Cernusco hanno messo gli ascensori, tanto per dire, sempre sulla linea 1 che va da Milano a Gessate. E adesso abbiamo la storia di Giacomo. Giacomo, buongiorno. Buongiorno. Allora, Giacomo, cosa ha da raccontarci? Allora, io vivo a Milano, ho una zia invalida nel Veneto, questa zia è immobile a letto, le è stato assegnato un letto a comando elettrico. Quelli dopo, che si possono alzare e abbassare sì, con un telecomando. Da ospedale praticamente, e dopo qualche anno, 2 o 3 anni, il letto si è rotto, allora faccio domanda di un nuovo letto, e mi dicono sì, però non è più elettrico, è a comando manuale. Allora, riepiloghiamo, sua zia ha diritto a avere questo tipo di sussidio a casa perché non si può muovere, quindi ha bisogno di un letto che riesca a alzarsi, a muoversi, che pigia un pulsantino e si riesce a mettere un pochino più comoda. È invalida, mi sembra un minimo. E non si può muovere dal letto, cioè non può scendere. Non può scendere. Quindi è un letto particolare per persone che vivono allettate, mi sembra chiaro. Esatto. E niente, ho fatto la richiesta, dice sì, il letto glielo diamo, però non è più elettrico, comando manuale. Quindi la cioè notte, cosa c'è? Manuale che significa? Che deve alzarsi da solo? Una manovella ai piedi del letto, una manovella per alzare la parte della testa e una manovella per serve un operatore, serve una persona che muova la manovella. Quindi, siccome allora la notte ha bisogno di muoversi un attimo da questa posizione, deve svegliare la badante viene, non viene, insomma. Ma mi spiego, come hanno giustificato questo passo indietro? Io capirei il contrario, prima ti danno il letto a mano che non esiste, quello elettrico, una volta che il mondo inventa il letto elettrificato è quello che deve dare. Come mai sei tornato indietro? La questione è quella economica, che costa di più e quindi quello a mano ha un costo, quello elettrico ha un altro costo. Sì, ma non è il presidio adatto per sua zia, non sa che... Infatti, perché succede che se lei ha il comandino elettrico di notte si arrangia e non dà fastidio a badante, invece chiamare la badante per alzare un po' più la testa, abbassare un po' il... Poi implica la necessità di avere comunque un'altra persona stipendiata che ti assiste. La persona c'è, però anche... Sì, ma l'autonomia, se il principio è quello di dare più autonomia possibile a una persona, anche per sua dignità. Esatto. Quindi lei qual è la domanda che vuole fare lei? Che dovremmo girare in qualche... A chi dovremmo girare la sua domanda e qual è il tipo di domanda? La domanda è perché una persona che ha pagato i contributi, ha lavorato tutta la vita, e quando ha bisogno, e all'età che ha di 92 anni, ha bisogno di un letto elettrico e gli dicono che non ci sono i mezzi per avere il letto elettrico. Ecco, questa è la domanda. È una cosa che non è giusta, è una cosa che... Va bene, questa è la domanda che fa Giacomo. Giacomo dice: perché mia zia deve aver bisogno di una persona che gli gira la manovella del letto, quando prima ce l'aveva poi il letto elettrico, perché non può continuare a averlo? Probabilmente può essere un problema che è diffuso in molte persone, sanno molte persone allettate, anziane, con dei problemi a cui l'ASL del Veneto non può passare il letto elettrico. Perché? Perché non ci sono i soldi. Questa è la domanda di Giacomo. Sentiamo invece Gianluca. Gianluca, buongiorno, in conclusione. Nicoletti, buongiorno. Buongiorno. Sì. Niente, io volevo segnalare semplicemente un fatto abbastanza semplice e anche abbastanza paradossale, ovvero sia mia sorella dalla nascita ha un problema motorio e vive, cioè, si muove con la sedia a rotelle oppure con le stampelle, ma con grande difficoltà, diciamo che principalmente con la sedia a rotelle. Quanti anni ha sua sorella? 39. Ora, in virtù di questa sua condizione, beneficia di quella che si chiama la legge per la vita indipendente o individuale, indipendente mi sembra, e quindi lei all'inizio dell'anno presenta al comune di residenza un elenco, una lista di attività che svolge durante l'anno, quindi l'attività riabilitativa, l'attività, cioè gli spostamenti per andare al lavoro, eccetera, eccetera. E in base alla somma che viene fuori da questo computo, il comune le eroga l'importo per poter coprire le spese di trasferimento. Potersi muovere, sì. Esatto. Ma questo mi avviene, può prendere dei taxi, deve avere un mezzo La cosa paradossale è che il comune, contrariamente a quanto prevede, cioè già il titolo della legge direbbe che è per la vita indipendente, quindi per dare la possibilità a chi ne ha bisogno di potersi muovere liberamente, va bene? Ora, il comune richiede, a fronte dell'erogazione di questo contributo, che venga utilizzata una cooperativa. Questo è il solito vecchio problema, esattamente. Allora, la domanda. Ma lei lo sa che può chiedere l'assistenza indiretta, nel senso che lei decide a chi dare il contributo e chi farsi trovare il servizio. Questo è una cosa. È il vecchio sistema per cui Roma, mafia capitale, è stata basata soprattutto su cooperative che si occupavano di disabili. Devi passare per forza per una cooperativa che in realtà funziona come il pappone con la puttana, mi scusi il termine, capito? Taglieggia quello che è il contributo pubblico di una parte cospicua che sono i giusti proventi della cooperativa. Sbaglio, dico qualcosa vicino alla sua esperienza? Ma è perfettamente in linea con l'idea, ma al di là di questo, intanto essendo il servizio, diciamo, deve essere fatturato, quindi già c'è una riduzione dell'IVA di quello che è l'importo che viene versato. Perché passa per la cooperativa, ma se lei avesse una persona che gli fa questo servizio, lei potrebbe assumerlo dando una busta paga che giustamente rendiconta ogni volta all'ASL dicendo: io guarda, ho pagato il signor Taldetali, l'ho assunto per fare questo lavoro per un anno, per quanto vuole, questa è la busta paga e questo spendo. Sì, ma sarebbe molto più semplice, visto che viviamo nel mondo delle autocertificazioni, sarebbe molto più semplice se l'utente potesse rivolgersi al pensionato, al vicino di casa, a chi vuole lui, gli dice: guarda, stasera voglio andare al cinema, sei disposto a portarmi al cinema? Ti do, conveniamo, l'importo, 20, 30, 50 euro, quello che sì, è. Sì, però quello comunque deve poi nelle sue tasse denunciare questi soldi, perché sennò diventa non funziona così. Lei non può dare cash 50 euro a uno di soldi pubblici. Lei può farlo, secondo me, con una persona che in qualche maniera poi rendi conti al fisco, che ha questo vantaggio. Questo, dico, le converrebbe assumere con un contratto a tempo determinato una persona, poi le tasse ci vanno pagate, perché comunque sia quello ha dei soldi in mano. D'accordo, però diciamo che l'assunzione anche a tempo determinato comunque comporta un livello di costo che non riuscirebbe più a coprire tutto il servizio per l'intero anno, mi spiego. Mentre invece è chiaro che qua non stiamo parlando di lucrare su quello che è l'importo erogato dal comune, perché chi se ne frega, no? Stiamo parlando della libertà di movimento di un individuo, perché mica se mia sorella vuole andare al cinema piuttosto che al museo, piuttosto che al centro commerciale, il sabato pomeriggio o il sabato sera, e mica può chiamare la cooperativa. Cioè le cose. Ma non sarebbe la cosa più semplice, lo dico come ipotesi, poi chiameremo un esperto alla prossima puntata, ci spiegherà come funziona questa vicenda, perché io ho parlato di esempi paradossali in cui una cooperativa ne prende 50 da un servizio che molte volte non è nemmeno adeguato e si prende una grossa fetta. Ma se sua sorella questi soldi li usasse ad esempio in taxi, il taxi gli dà ogni volta la ricevuta, lei paga il taxi, sarebbe comunque un trasporto adeguato in cui non ci sarebbe questa sorta di ritaglio che dice lei della parte di tassazione. Però visto che il problema è interessante e riguarderà molti, la prossima puntata chiamerà un esperto e ci spiegherà proprio come funziona la possibilità di usare al meglio e a massimo vantaggio del disabile questo tipo di contributo. Grazie a tutti, alla prossima. Vogliamo o no, le storiacce sono intorno a noi, negli abusi del vicino di casa, nelle prepotenze dei mafiosi, negli imbrogli di chi rovina le nostre giornate. Ma perché?